Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Lavoro e posto di lavoro, due concetti che fino a pochi anni fa sembravano inscindibili al punto che queste due parole venivano usate indifferentemente, ebbene oggi stanno tornando ad assumere significati diversi. È uno dei tanti effetti del tornado che si sta abbattendo sul mondo del lavoro, un tornado che mescola gli effetti di internet, della robotica e dell'automazione che sono sempre più diffuse, così come anche nuovi paradigmi come la sharing economy, l'economia condivisa. In mezzo a tutto questo sta emergendo una classe di lavoratori diversa da tutte quelle che si sono viste in passato. Da molti punti di vista sono simili a dei liberi professionisti, ma non sono inquadrabili in una professione, e c'è chi li chiama worksumer e hanno un rapporto particolare anche con il luogo di lavoro. Ne parliamo con Pietro Martani, che è fondatore e amministratore delegato di Copernico, una holding che gestisce una serie di spazi di concezione avanzata dedicati allo smart working. Buonasera Martani. Buonasera. Allora, chi sono questi worksumer e appunto qual è il valore aggiunto che cercano sul luogo di lavoro? Il worksumer nasce un po' nella fusione tra la vita lavorativa e la vita privata che oggi tutti in qualche modo sperimentiamo, con il cellulare sempre acceso che ci manda mail tutti i minuti. E questa figura richiede, diciamo, di trovare un nuovo equilibrio sul posto di lavoro. Ci sono tre figure principali di worksumer. La prima è in qualche modo il lavoratore autonomo, il freelance. Il popolo delle partite IVA, no? Che un po' è una presa in giro, ma un po' invece è anche un fenomeno diverso, perché non c'è più il commercialista, l'avvocato, eccetera. Ci sono questi professionisti che si fa anche fatica a capire che lavoro facciano, no? Certo, sono 3.800.000 persone. E queste figure, insieme alle partite IVA, rappresentano quasi il 30% della forza lavoro del paese. E queste figure, ad esempio avvocati commercialisti, per pensare a figure diciamo tradizionali, hanno visto erodersi i propri ricavi negli ultimi 10 anni costantemente. I cambiamenti del mercato oggi impongono a queste persone di ripensare a come fare la propria attività. E il punto di partenza è collegarsi, collaborare, lavorare con altri per costruire reti di impresa che sostengano le sfide del mercato. Ecco, perché sembrava quasi che stessi per dire e allora devono risparmiare un po', no? L'affitto, ma non è questo il punto, non è che vanno lì per risparmiare l'affitto, hanno capito che hanno bisogno di una dimensione sociale, di rete per tenere in piedi la propria professione. Assolutamente, oggi si parla molto di sharing economy. Io credo che si dovrebbe parlare di economia collaborativa. La sharing economy prevede che si condividano cose. L'economia collaborativa prevede che le persone si mettano in rete a costruire delle cose insieme, condividere competenze e conoscenza. Ecco, veniamo alla seconda categoria, che se non sbaglio è quella diciamo degli imprenditori, dei piccoli imprenditori, che però è anche non sono gli stessi piccoli imprenditori del passato. No, certo, gli ultimi anni diciamo di questa crisi, che se vogliamo è una dimensione strutturale, oggi per il piccolo imprenditore significa non avere prevedibilità sul futuro, avere pochissime risorse per gestire il proprio business, sicuramente molto meno del passato. Pensiamo a tutte le migliaia di start-up, no? Di start-up, ma anche di aziende piccole, ma con una certa età, che però hanno visto sicuramente erodersi i propri proventi negli ultimi anni. Anche queste aziende devono mettersi insieme ad altri per affrontare anno per anno le sfide del mercato. E anche in questo caso l'economia della conoscenza, che ha così rivoluzionato il come si lavora, impone un costante collegamento con altri e in un contesto molto più aperto. Ecco, veniamo al terzo attore interessato da questi spazi. Le grandi aziende che progressivamente si assottigliano attorno a un cuore di dipendenti, diciamo così, di persone costantemente impiegate all'azienda molto più ristretto. Queste grandi aziende stanno oggi ripensando al modo in cui si lavora, e anche qui c'è un'etichetta che è smart working, e quindi un po' di libertà per le persone, libertà di dove si lavora e di come si lavora. Cioè ti arriva la telefonata quando sei a casa sul cellulare, ma magari durante l'orario lavorativo puoi andare a portare i figli all'asilo, no? Sì, è uno scambio in fondo. Esattamente, questo è un po' il worksumer, la ricerca di un nuovo equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, dove la vita lavorativa è molto pervasivo. Invade la vita privata, a questo punto devi portarti un po' di vita privata al lavoro, se vuoi averne sostanzialmente. Esattamente. E quindi come cambia il posto di lavoro, il luogo di lavoro? Dal mio punto di vista il luogo di lavoro cambia in modo molto più divertente. Una giornata lavorativa scandita da diversi momenti, dove ci si incontra, dove si lavora a un caffè, dove si lavora in luoghi più simpatici, molto più vicini alla hall di un albergo, piuttosto che una macchinetta del caffè con due sedioline tristi, insomma, classiche da ufficio. E inoltre un altro tema, diciamo, che riguarda le grandi aziende soprattutto, ma in realtà tutto il mondo del lavoro, è il concetto dell'innovazione. Chi porta queste nuove idee? Il talento. Quindi le persone tornano al centro anche da questo punto di vista. Queste figure devono essere trattenute dall'azienda, devono essere coltivate e favorite in un contesto che consenta loro di esprimersi al meglio. E anche un po' coccolate, diciamo così, no? Va bene, grazie Martani. Grazie mille, a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.